Italia in controluce. Gli elementi sono quelli tipici di un thriller, ma questa è realtà. C'è infatti un feto trovato in un sacco nero all'interno dei locali di un'università. C'è il mistero di 2 giorni e mezzo che separano l'orario del ritrovamento con la denuncia alle forze dell'ordine. C'è il luminare controverso che grida al sabotaggio. Il tutto è ambientato a Milano, all'Università Bicocca, terzo piano dell'edificio di Bioscienze e Tecnologie. 2 ricercatori trovano una scatola di polistirolo dentro appunto un sacco nero contenente un feto umano, forse di 4 mesi, ma sarà l'autopsia a stabilire con esattezza di quanti mesi sia. Alla Bicocca fanno sapere che in questa università non si conducono ricerche su feti umani e questo esperimento non è mai stato approvato. Insomma, quel feto lì non ci doveva stare. Allora chi ce l'ha messo e soprattutto perché ce l'hanno messo? Si tratta di un sabotaggio, si dice sicuro. Angelo Vescovi, professore della Bicocca e direttore scientifico dell'Istituto Casa del Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. In questo periodo sta portando avanti esperimenti su malati di sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di Lou Gehrig. Nelle stanze dove è stato ritrovato il feto opera proprio il suo gruppo di ricerca. Vescovi è una figura piuttosto controversa. È cattolico, oppositore della fecondazione eterologa e della sperimentazione con l'utilizzo di cellule staminali embrionali. E quindi è proprio su di lui che ovviamente si stanno concentrando le indagini per capire chi abbia voluto colpirlo, se questo è stato il motivo del gesto. Maria Luisa Pezzali ha raggiunto poco fa il dottor Vescovi, allora sentiamo cosa ci ha raccontato. Sottolineo una cosa, io ho detto, esprimo un'opinione, non ho alcuna prova, ancora oggi non ho alcuna prova. Negli anni il mio gruppo ha subito numerose aggressioni documentate anche con delle denunce dei carabinieri, per cui quella è la prima cosa che ti viene in mente. La realtà è che in questo momento noi brancoliamo nel buio più totale, anche le modalità con cui questo è avvenuto rimangono veramente sconvolgenti, nel senso che io personalmente che ci lavoro ho autorizzazioni di questo genere non sarei mai in grado di ottenere del materiale come quello che è stato ritrovato, è impossibile in Italia e non riusciamo veramente a capire come diamine questa cosa sia potuta avvenire. In nessun modo la mia università può essere coinvolta, nel senso che ho sospettato di colleghi o cose di questo genere, è impensabile. Subito le anticipo allora questa domanda: se fosse un sabotaggio addirittura potrebbe essere legato a cordate di potere all'interno dell'università? Beh, risponderò nello stesso modo schietto. Mi sembra una cosa talmente delirante che non mi viene neanche da riderci sopra. Lo escludo in una maniera più totale. È pura fantascienza. Io purtroppo lavoro in un settore che è estremamente controverso e va sottolineato una cosa, questa sì, che la sperimentazione che stiamo portando avanti tra Terni e San Giovanni con l'aiuto dell'Università della Bicocca è una sperimentazione etica nel totale rispetto della vita umana e che quindi è stata già fatta su 5 e venerdì saranno 6 pazienti. E quindi dà risposte a domande che si pensava non potessero avere risposte con le tecniche che non implicano uso di embrioni o cose di questo genere. Perché lei, ripetiamolo, sulle staminali esprime un pensiero controcorrente rispetto alla comunità scientifica, cioè lei usa staminali non di derivazione embrionale. È corretto, non solo quello, sì, diciamo che la mia posizione non è allineata con la grande maggioranza, poi ci sono dei colleghi che condividono la mia posizione, di coloro che sostenevano ormai con le scoperte di Yamanaka è un po' diversa la cosa, che si potesse fare la sperimentazione sull'uomo solo con le cellule staminali embrionali. In realtà non è mai stata fatta e in questo momento è in corso una sperimentazione su pazienti SLA, appunto utilizzando cellule che sono sì di origine fetale ma solo in seguito a cause naturali di morte del feto stesso, con un protocollo che è identico a quello del prelievo d'organo per i trapianti d'organo, quindi completamente accettato anche dalla Chiesa Cattolica. E quindi sì, mi muovo controcorrente, il che crea delle resistenze. Lei usa staminali fetali per la sua ricerca e dove? Le usiamo, ripeto ancora una volta, sono da morte naturale. Le cellule vengono prelevate nell'ospedale di San Giovanni Rotondo se i genitori danno l'autorizzazione e solo le cellule e solo i frammenti di cellule, quindi non abbiamo accesso a, mi spiace usare il termine, ma all'intero cadavere che viene poi seppellito secondo le norme e secondo regole di tracciabilità assoluta, quindi è assolutamente impossibile, come molti poi hanno condiviso, che questo sia materiale nostro. Le cellule, i tessuti poi vengono trasportati con una filiera controllata a Terni dove vengono preparati per le iniezioni nei pazienti e una piccola frazione di queste cellule viene verificata all'Università di Milano Bicocca. Lei in passato ha ricevuto, professore, addirittura minacce di morte. Sì, due volte, in due occasioni, soprattutto gli ultimi giorni intorno alla fine del referendum sulla legge 40. Anche minacce alla carriera, queste però sono esplicite. Lei riceve finanziamenti, sostegno da realtà del mondo ecclesiastico? Direttamente no, se non in passato, negli anni, per la Banca Cellule Staminali di Terni, acquisti di strumentazione materiale, credo, da parte della diocesi di Terni. Le nostre attività sono supportate dalla Fondazione Cellule Staminali, dall'Associazione Neurotonollus, dall'Ospedale Caro Sollievo della Sofferenza, acquisite attraverso raccolte fondi. In queste raccolte fondi sì, veniamo aiutati anche da autorità ecclesiastiche, perché è una ricerca di tipo etico, comprovatamente etico, documentabilmente etico, e noi siamo cristallini, chiunque può venire a vedere anche oggi e domani, ma peraltro siamo certificati dall'AIFA e quindi non possiamo nascondere niente. Cosa pensa di fare? Ho letto anche un suo sfogo, me ne andrò all'estero. Sono veramente molto triste. Io sono tornato in Italia dopo 5 anni di lavoro in Canada. Ho ricevuto negli anni numerose e ancora una volta documentabili offerte di andare a dirigere dei centri all'estero, ho sempre rifiutato. Ho promesso ai pazienti, ho preso degli impegni che mi dicono le persone, gli impegni vanno rispettati, per cui sicuramente completeremo questa sperimentazione, la successiva che dovrebbe essere, penso, sulla sclerosi multipla e quella sui tumori cerebrali della mia piccola società di biotecnologia. Dopo mi ritengo libero, ieri ho una reazione a caldo, questa tendenza è sempre lì, è sempre sotto quando hai questi momenti qui. Io mi spiace avere questo tono di voce, però sono letteralmente molto sconvolto da questa cosa, anche per la crudezza dell'evento. Noi abbiamo trapiantato già 5 pazienti, che almeno dal punto di vista sicurezza stanno molto bene, e ti facciamo il sesto venerdì. In questo clima andare in sala operatoria è veramente dura. Queste le parole di Angelo Vescovi. Dunque, chi può aver avuto l'interesse ad inguaiarlo e chi ha l'accesso a quelle stanze? Stanze che non sono protette da badge, codici, non ci sono tornelli, in sostanza chiunque può entrare. Ma come è regolamentata la ricerca sulle cellule staminali in Italia? La nostra Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto ad Amedeo Santosuosso, magistrato presso la Corte d'Appello di Milano, docente di diritto, scienza e nuove tecnologie presso l'Università di Pavia. La ricerca sulle cellule staminali in Italia è possibile. È possibile sia sulle cellule staminali di origine embrionale sia su quelle di origine non embrionale. L'unica condizione è che quelle di origine embrionale devono essere prodotte non in Italia, per cui possono essere importate dall'estero e i ricercatori possono lavorare su queste. Nel caso specifico della bicocca, sinceramente, io credo che si sia al di fuori di qualsiasi discussione circa la liceità della sperimentazione sulle cellule staminali, perché sembra un caso che violi in modo radicale, plateale, qualsiasi norma di sicurezza e qualsiasi standard scientifico. Conoscendo anche la persona, escluderei che possa essersi prestato a un'operazione di questo genere. Ecco, quello che posso dire è che qualsiasi ricerca che utilizzi cellule di origine fetale deve avere una metodologia di acquisizione dei materiali che deve essere passata al vaglio di un comitato etico. Escludo che una metodologia che preveda una conservazione tipo quella che abbiamo visto nelle cronache di giornali possa essere stata approvata dal comitato etico, e mi sembra veramente strano che ricercatori esperti come sono quelli del centro in questione possano aver fatto una violazione così grave e così macroscopica delle norme minime esistenti. Grazie a Maria Luisa Pezzali per aver curato questo approfondimento, grazie a Filippo Aureggi in regia. Italia in Controluce torna domani come sempre alle 13:30. Un saluto da Maria Piera Ceci.